forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. Forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. Troppi inverni che non passano, si accavallano, tendono a farmi male quando mi distraggono. Tendo a tenergli il passo quando cammino, freddo sul viso e le persone che parlano. Oggi voglio zero contatto umano, la pioggia mi fa compagnia quando mi sento solo. Leva tutto il male che c'è e sento mono. Non ho più voglia di stare dietro a un sogno che non trovo. Oggi niente stress, cancello la sua visita. L'agenda è piena solo di tranquillità. E questa città così opaca e senza anima, mi sembra meglio che starmene chiuso in camera. Voglia di essere diverso almeno un giorno, per non dimenticarlo lo ritrovo in ogni sogno. Chiudo la mia giacca a vento, non prendo freddo, è abbagliato dalla luna, quasi non mi sveglio. Forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. Forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. 12 rintocchi a mezzanotte, la notte che si illumina e bussa in tutte le porte. Poche le persone ancora sveglie e forse troppe le persone che sperano che finisca questa notte. Al contrario, io vorrei non dormire mai, godermi questa notte solo coi pensieri miei. Non tornare mai, solo e so che arriverai, stare ore ad aspettare che mi scalderai. Di tempo ne ho fin troppo e fingo se dico che non ho tempo per me stesso. È un pretesto per avere un attimo di gioia in un contesto che si crede migliore dal resto. Forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. Forever in a dream, all night long in the street. Passano le ore, passa il radio solo swing. Forever in a dream, all night long in the street. Passano i minuti e sembra passino così. Mentre mi guardo allo specchio non è me stesso che cerco. Cerco nel profondo del riflesso dello stesso uomo che non cerca se stesso. E mentre penso ho bisogno di un altro riflesso per sparire dal contesto. Oggi storie nuove, sveglia alle 9. Stomaco chiuso, quindi niente colazione. Open PC, dammi un beat, prende bene. E perdo la giornata sepolto dalle rime. Oggi un nuovo disco da proporre. Nuvole che in cielo danno nuove forme. Guardo in alto e incantato perdo il filo del discorso. Abbandono tutto e quasi quasi mi rilasso. Manca poco tanto all'incontro col mio materasso. Fili d'erba e qualche sasso. Manca solo un sax e un contrabbasso. A questo punto mi distendo e lascio.